Eccoci qua, ecco qua, buonasera a tutti, gli Spacciaserie sono in diretta, sei dallo studio magnifico di Pisa, via Piavola Buti. Nel frattempo qui abbiamo un fantastico ospite che non parlerà ancora perché vuole essere presentato direttamente da Tommaso Martelli che è direttamente da Marsiglia. Ci sei Tommaso? Tommy, Ci parla. sono, Piero, ci sono anche stasera. Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, presentalo tu, hai voluto questo onore, io te lo riservo, presentaci tu l'ospite di stasera. Ho voluto questo onore perché c'è da spiegare un antefatto, Vai. ok? Non è che la gente si diventa appassionata di serie televisive così senza motivo, ok? E non è che la gente inizia a drogarsi di serie televisive senza motivo. E io posso dire di essere stato effettivamente l'iniziatore del nostro ospite di questa sera. Cioè l'hai drogato tu C'era per un primo. tempo in cui era una persona seria. Esatto. C'era un tempo in cui era una persona seria. Ma ormai quel tempo è andato, credo. Esatto. C'è Marco Io che cominciai a piange. vedere serie televisive. Sì. Io cominciai a vedere, una serie di cui parleremo poi sicuramente, Ma la puoi dire. Stargate. Ah, Stargate, tu te la ricordi? Esattamente. Posso parlare? Come? Posso parlare? Però presentalo prima, se no lui Posso non può parlare? parlare. No, lui è il mio ex e nonché attuale coinquilino, Cioè, è Marsiglia Claudio. con te? Cioè, mi hai già lasciato, come sarebbe No. ex? No, ex perché poi mentre ci siamo trasferiti abbiamo... E attualmente però non sei il mio coinquilino. Ma i francesi sono nettamente peggio di me. Lo so, Claudio, lo so. Poi sono francesi, una per volta ogni tanto ci definizione. slavo. Loro no, ma questa è un'altra storia. È un'altra triste storia che racconteranno in altre serie TV francesi, probabilmente, che noi però non abbiamo No, mai visto. sì, per fortuna direi. Ma quindi. Non mi metterei mai a guardare una serie Ma tu sei il nostro francese. inviato lì per questo, eh. Io ormai sono già coautore del programma, il Ah nostro sì? inviato. Il Ah, nostro Marco ok. Ardemagni, diciamo. Tommy, ci vuoi dire il nome dell'ospite, che Dici. altrimenti qua rimane muto per il resto della puntata? L'ha detto, Tommy. si chiama Claudio. Ah, Claudio, allora puoi parlare, sei libero. Buonasera, buonasera a tutti. Mi hanno ospitato qui agli Spacciaserie. Continuo a non sapere per quale motivo, ma evidentemente lo Di sapranno cosa il motivo parliamo? è semplice. Tommy, dillo tu, di cosa parliamo oggi? Perché questa sera parliamo Ecco. Purtroppo lo stiamo di una serie perdendo. televisiva storica che Sì, vai. come Ti abbiamo scusate per ripreso. te, perché come scritto già sulle pagine di Facebook. È Sì. serie televisiva di Star Trek. Star Trek? Star Trek, sì. Sì, parliamo di Star Trek, vero Claudio? Star Trek, cioè, se proprio volete si può parlare di Star Trek, ma è una cosa lunga, tediosa. Poi una puntata non basterà mai per parlare di Sì, Star abbiamo Trek. fatto un mini summit questo pomeriggio per vedere un po' di cosa si poteva parlare, come organizzare i momenti, gli spazi. In realtà abbiamo talmente tante cose da dire che non sappiamo se basterà il tempo. Non sappiamo, sicuramente non basterà, Sì, però sì. non sappiamo nemmeno bene di cosa parlare. Quindi, se nel caso, ascoltando questa puntata questa sera o comunque in podcast, vi sembrerà che ci sia qualcosa di non detto, qualcosa di lasciato un po' così intentato, non diciamo che è voluto, però diciamo Diciamo che è. io non me ne prendo nessuna responsabilità, ecco, dato che da ospite esperto dovrei fare la parte di quello che sa tutto di Star Trek, cosa impossibile, data la grande mole Quanti di erano gli episodi? E 178 dichiarati, insomma. lui li ha visti tutti, vero? Sì, purtroppo sì, è colpa sua perché tra l'altro è Tommaso che mi ha instradato a questi. Tra l'altro, nella riunione mi hai detto che non vorrai assolutamente parlare del cartone. Il cartone sì, di cui non parlo perché fa schifo, è un qualcosa di inclassificabile. Ora, tutti gli appassionati di Star Trek mi denigreranno, faranno, ma come, sei pazzo? È chiaramente inclassificabile. Tommy cosa ne pensa? Anche lui è appassionato. Ma io Tommy. veramente Star Trek ho iniziato a guardarlo, però mi sono un pochino bloccato sulla serie classica perché è un po' pesantina, Ah, ecco. perché hai commesso un grave Le errore. altre invece sono interessanti. Perché Star Trek Lo so, non va ho guardato tra più o l'altro. meno in ordine Ora cronologico. faccio vedere che ho studiato anch'io, però la serie classica come viene chiamata dai fan? Vediamo, dovresti saperlo, te l'ho spiegato. Dai, dillo tu che sei The l'esperto. Original Series. Quindi in sigla TOS, giusto? TOS. Quante ne so, quante ne sa. Bene, siamo, io direi che non diciamo cavolate, pile però fogli. Abbiamo spiantato un albero per stampare. Purtroppo a casa di Claudio ormai non abbiamo Matteo, ti devo una visma di carta. Tranquillo. Mandare un primo brano che potrebbe essere la sigla, cioè la sigla nostra o la sigla ad di esempio. Star Trek. Io andrei con la nostra, con la sigla del programma. È la sigla del programma, però Stem, è un po' un problema. Ora un attimo che la ricerchiamo un po'. Mentre io ricerco, non ci sono più io e non mandi più la sigla, io non lo so. No, ma la mandiamo. Ora però voi parlate di qualcosa mentre io cerco e spulcio qui tra le varie puntate. Sì, no, ma sigla come va, Tommaso? mi sembra giusto, maledetti. No, Marsiglia va benissimo. Oggi ho provato a fare un piccolo sondaggio, sempre per parlare di Star Trek, su se qualcuno qui in giro, delle persone un po' che sto frequentando, lo conoscono, e tutti lo conoscono ma non l'hanno mai visto seriamente. Ah, sì. Probabilmente perché qui le serie televisive ancora non hanno attaccato come perché il programma non arriva ancora, però. Cioè perlomeno è seguito poco in Francia, dobbiamo puntare di più sul pubblico francese. Come sono le francesi? Dobbiamo puntare... Adesso meglio le italiane. Ecco. Ma non fare il campanilista, via, ci sarà qualche aspetto. Comunque, ora è tutto questo. No, campanilismo al 100%. Io sono pronto per far partire la sigla. Attenzione. Vai, Piero. Vai con la vecchia sigla degli spacciaserie. Andiamo. È la notte giusta. E ne verranno altre, e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Come al solito noi balliamo un po' sul finire della sigla. Sì. Claudio non lo sapeva, ha partecipato anche lui al ballettino. Sì, sigla fra l'altro irrispettosa, dato che la serie più longeva della storia della televisione non ha neanche un pezzo della sua sigla. Qual è la serie più longeva? Guarda caso. Non a caso io potevo parlare solo di questa, gente seria. Non... Mica a caso li invitiamo gli ospiti. Ma quindi... Volendo fare un escursus su un po' di tutta la storia, che so che è lunghissima, però volendo inquadrare un po' dove ci muoviamo, in che anno siamo innanzitutto? Anno terrestre o anno trecchiano? Già, perché qua comincia già il dilemma, cioè ci sono le date astrali, mi spiegate? Sì, perché diciamo il calendario dell'universo fantascientifico di Star Trek è basato su delle date astrali che ho scoperto non essere casuali, come buona parte del pubblico pensa, ma... Tommy, tu lo sai che anno è, che data astrale abbiamo oggi? No, sinceramente non mi ero proprio posto questo problema. Ora, se però, i nostri potenti mezzi riusciamo a trovare il tempo nel prossimo intermezzo musicale, potremo calcolarla e poi te la riferiremo, non ti preoccupare. Ora, perché noi abbiamo la formula. Ok, grazie. Che ora... Se Claudio la trova tra i suoi innumerevoli foglie, potremmo anche declamarti qui in radio e tutta la gente a casa potrà... Ecco, l'abbiamo trovata. Vai, Claudio. Ecco qui. Per calcolare la data astrale bisogna sottrarre 2323 all'anno in corso e aggiungerci il giorno diviso 365, tutto moltiplicato per 1000. Beh, è semplice, no? Cioè, Tommy, così, all'impronta, dimmi, qual è la nostra data astrale? Ok. 12. Ma Tommy, è negativa, almeno questo me lo dovevi dire, cioè, deve essere per forza negativa, no? Negativa. Cioè, ma perché deve essere per forza negativa? Perché 2323 fatto... Sì, però abbiamo detto una bischierata, Piero, perché c'è un più, Ma il giorno diviso 365 è piccolo. Sì, è una cazzata, è una cazzatina piccolina. Negativo. Trascurabile, ma scherzi, è un epsilon trascurabile. Ma perché la data astrale è negativa? Ah, perché chiaramente noi siamo prima del primo volo a curvatura. Chiaro, no? Che si mancano le basi, ti mancano. Ma comunque tornando un d'altronde po'. Anche i primi viaggi della nave stellare Enterprise non sono a data astrale zero, perché il volo a curvatura risaliva circa un secolo prima. L'universo fantascientifico. Ma quindi, perfetto. La storia quando comincia? Perfetto. Ma la storia è ambientata grosso modo nel 2300, e quando una nave comandata da il famosissimo capitano Kirk, un ufficiale scientifico noto a tutti come Spock, gli americani lo pronunciano Spock, ma è un qualcosa di inascoltabile, e il dottor McCoy Spock, guidano l'Enterprise verso nuovi e sconosciuti mondi. E vabbè, questa è la base di Star Trek. Diciamo che la serie venne mandata in onda per la prima volta nel 1966, non riscosse un grandissimo successo, difatti la stavano per tagliare. Quei quattro devociati, tra cui ci sarei stato anch'io molto probabilmente, decisero di fare un picchetto davanti alla casa, davanti all'NBC, e quindi supplicando che la... Non la cancellate, continuate. Insomma, gli hanno dato il contentino, hanno fatto 3 stagioni e poi era morta lì. Sarebbe stata la mia salvezza, almeno non mi sarei drogato. Invece, e invece hanno continuato. Hanno continuato facendo altre 7 stagioni di un primo spin-off, ulteriori 7 di un secondo spin-off, insomma un numero di puntate. Poi spin-off da spin-off. Sì, proprio insomma. Una quantità di spin-off, anche il regista un paio di spin-off dovrà aver tirati giù, sì, perché indubbiamente... Tra l'altro il produttore Gene Roddenberry senti che bella pronuncia, Roddenberry. Ha preso parte alla produzione soltanto dei primi 2 spin-off, gli altri sono stati liberamente interpretati da chi è venuto dopo, hanno capito che si mangiava, dice qui ci sono soldi, allora facciamo altre 5-6 stagioni, serie, episodi, di tutto, un casino. Ho capito, ma quindi nell'original series. Scusa, la mia pronuncia è quella che è. Appunto c'è questo scopo di andare a cercare nuovi universi, nuove popolazioni, nuove civiltà. Però c'è anche un motivo di conflitto, diciamo. Beh sì, diciamo che la quasi neonata Federazione dei Pianeti Uniti, un'alleanza in cui di cui la Terra viene a far parte, si scontra con un popolo barbaro di guerrieri a tutti noto come Klingon. L'invenzione del quale popolo ha causato gravi danni anche alla società reale attuale, perché ora ad esempio hanno fatto anche commedie in Klingon, hanno una lingua vera e propria, hanno dovuto inventare un linguaggio per rendere più credibile la... Mi dicevi una cosa che è bellissima, che io non sapevo... Tutti sanno, forse Tommaso lo sa di sicuro, che anche Google è utilizzabile in Klingon. Anche Google è in Klingon. È utilizzabile in Klingon. Esatto. Ora con una pronuncia non assolutamente non accessibile ai più. Ho capito. Tu hai qualche spezzone che volevi mandare in questo momento? Ma io direi che per entrare subito nello spirito di Star Trek bisognerebbe mandare innanzitutto la sigla della serie originale. Perfetto. No, questa è la nostra. Va bene, sì, è la notte giusta. E ne verranno altre. È la nostra. Deve succedere. Sì, scusaci. Ha visto sigla e è partito. Sono partito. Si è emozionato. Allora, la sigla è in playlist, io credo. Attenzione, noi continuiamo a parlare mentre Claudio maneggia il suo Mac, che io non so dove mette mai, e sta cercando la sigla. La sigla forse ce l'abbiamo, eccola qui che parte. Buon ascolto. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. eccoci qui. Eccoci, eccoci. Dopo questa sigla stupenda. Tommy, quante volte l'hai vista? Ma la sigla svariate volte, dai. Infatti sì, questo lo devo ammettere. Ti piaceva? O era troppo old style per te? No, la sigla mi piace. Ah, vedi. È un po' retro, ma è un bel retro, dai. Beh sì, fondamentalmente sì, è stupenda. Poi, d'altronde la comunque nel mentre, voce... mentre voi... Mentre noi? No, dicevo, mentre voi eravate lì che chiacchieravate, mm-hmm. Io ho calcolato la data stellare di oggi. Vai, diccela. Che è il meno 312.909. E lo vedi che è negativa? Avevamo ragione, vedi noi a occhio. 0,59 se vogliamo essere precisi. Eh beh, quello è fondamentale, punto 59, come direbbe Jean-Luc Picard. Ok. Bene. Continuiamo, quindi tornando alla serie classica, anche per dare un certo ordine, perché sennò veramente diventa ingestibile la storia. D'altronde mi lasciano una puntata e basta per parlare di Star Trek, è improponibile. Si lamenterà fino alla fine della puntata. Sì, no, ho fatto questa promessa perché non è possibile. Bisogna un po' inquadrare quelli che sono i personaggi principali della serie classica. Ora, il Capitano Kirk, forse quello più noto, e appunto l'attore William Shatner, di cui io... ritengo che la miglior performance sia in un'altra serie, un po' più recente, che è Boston Legal. Tommy, tu la vedi? No, io quelle legali me le sto rispacciando. Certo, siete degli spacciaserie abbastanza scarsi. Cioè, lì William Shatner interpreta l'avvocato Mandrillo. Rendetevi conto. Il tipico avvocato Mandrillo di Boston. E che succede? Che cosa fa? Tra l'altro lui è solito, innanzitutto, ogni volta che viene inquadrato, pronuncia il suo nome facendo Danny Crane, che rende solo questo un motivo valido per guardare Boston Legal. In più c'è una scena stupenda in cui lui dà il meglio di sé, in cui entra in un'aula di tribunale vestito da padre Pellegrino e vantandosi spropositatamente di se stesso dicendo Danny Crane, i miei cd nell'atrio. Chiaramente, come avete capito, lui interpreta Danny Crane in questa serie. Come si chiama, scusa? Danny Crane. Ah, ok, perfetto. Danny Crane, sì, è stupendo. Una sonorità che solo William Shatner poteva avere, sì. E quindi? E poi, diciamo che il secondo personaggio più importante di Star Trek è un vulcaniano, l'ufficiale scientifico Spock. E ora... ai neofiti, guarda che parolone, neofiti, mamma mia, zio, ho studiato davvero per fare questo programma, ai neofiti... Dai, ma non ci sarà veramente un neofita di Star Trek? No, ci sono i neofiti, Pierre, lui aveva io sono abbastanza neofita. Chiedo venia a tutti gli ascoltatori, ma io Star Trek, ma un po' tutte quelle fantascientifiche le evito un po', perché... Ma la fantascienza è la vera serie. No, ma sì, ma infatti, però il fatto è che... per come sono fatto io, che se devo fare una cosa la devo fare per bene, la devo cominciare, la devo finire. Mettermi con tutti quei 178 episodi sul gruppone così da zero sarebbe una impresa, non studierei più. Quindi diciamo, per evitare tutto ciò, mi baso su altre cose che sono più leggeri, partono adesso. Difatti la mia fortuna è stata che per guardare 178 episodi ci ho messo meno di 6 mesi, perché se no avrei perso altro che un anno di università, forse 2 o 3. E quindi questo è sempre colpa di Tommaso, chiariamoci, perché Tommy, è lui Tommy, che mi cosa mi convince. Sì, è sempre colpa mia. Io ne avrei fatto quasi volentieri a meno. Ma no, ma come? Cioè, ti è piaciuto anche perché sennò non avresti continuato. Ma dai. Anche se effettivamente guardare Leonard Nimoy, cioè Spock. L'ufficiale scientifico Spock, che fa, diciamo, che fa dissertazioni sul genere umano, ne vale la pena. Ora magari facciamo sentire un piccolo brano in cui si capisce la vera natura di un vulcaniano, qual è. Ho capito. Aspetta un attimo, prima di mandare questo brano io manderei un po' di musica per rilassare la gente. Allora, spieghiamo un po'. Noi abbiamo cercato delle canzoni che provenissero dalla colonna sonora dei vari Star Trek. Dei mille Star Trek. Perché ce ne sono... serie, stagioni innumerevoli, veramente tantissime. Abbiamo trovato qualcosina, che però per lo più sono appunto musica senza parole, senza parole. Sono brani musicali per lo più. Quindi noi adesso ne mandiamo qualcuno e poi proseguiremo con la solita selezione musicale, certo, da varie serie TV, magari specifichiamo, magari bene collegate a Star Trek, ma è per vie traverse, insomma. Perfetto. Allora io manderei questo simpatico brano del compositore giapponese, credo, Akushi, che si chiama Spock's Cox. Rieccoci qui. Certo, dopo una canzone che si intitola Il pene di Spock, siamo tutti più allora, contenti. Io l'ho cercata, sembra che il titolo sia effettivamente sì, poi, questo. Riferendoci a un vulcaniano che si accoppia ogni, si nove, accoppia anni, ogni 9 anni, quando va bene. Quando va bene, sì. Un popolo strano, io l'ho sempre sostenuto, la logica prima di tutto, ma poi accoppiarsi una volta ogni 9 anni è veramente, veramente triste. Vabbè, loro, perché poi c'è tutto un processo, no? Sì, perché fondamentalmente i vulcaniani vanno in calore. Come i gatti, come gli animali. C'è una puntata di Star Trek Enterprise in cui l'ufficiale scientifico T'Pol, una vulcaniana, tra l'altro una discreta figliola, sai, motivo in più per guardare Star Trek, ecco, va in calore e non riesce a trattenersi, dall'andare a letto con l'ingegnere Trip Tucker, ingegnere di bordo. È una puntata, insomma, che merita già solo per vederlo il fondo schiena, che è qualcosa di epico, ma è... Più spiega che cosa avviene ai vulcani, poi diventano violenti, pericolosissimi, rischiano di ammazzarti, scene da capogiro, incredibile, cioè neanche nel miglior film porno. Infatti diciamo che l'hai guardato anche con un certo interesse, oltre beh, che scientifico, oltre che culturale. Poi, diciamo che il 25enne ha sempre quell'interesse che, per cui c'è una spia accesa, diciamo. Io fino allora avevo preferito i Klingon, che per loro missione si accoppiano tanto quanto combattono, considerando che combattono ogni giorno, si accoppieranno ogni giorno. Ma i vulcaniani quella volta ogni 9 anni deve essere devastante, perché... Ho capito. Ma siccome anche somaticamente le varie popolazioni, da quel che ho visto un po' di spezzoni, sono molto differenti, diciamo, quali sono invece quelle più simili? Cioè, perché ti piaceva? Perché comunque i vulcaniani sono abbastanza simili a... Sì, no, praticamente sono simili ai terrestri, solo che hanno le orecchie a punta e le sopracciglia non arcuate, sfinate verso l'alto, il che per una ragazza è... È il suo. Poi, siccome seguono una rigida disciplina alimentare, sono anche belle, rifinite, magre. L'unica rogna è che cambiano 250 anni, te le devi tenere davanti agli occhi. E poi solo una volta ogni 9 anni. E poi una volta ogni 9 anni. Però, se sei fortunata a sapertene gestire un discreto numero... Ah, perché non è lo stesso anno. Io pensavo che ci fosse l'anno in cui vanno in calore. No, vanno in calore a turno. Ah, cioè, okay. Tu nasci... Dopo 9 anni basta farsi viene il primo calore vulcaniane. Se vuoi trombare ogni giorno ti serve un arm smisurato, perché 9 anni, 9 per 365. Tommaso, tu che sei il nostro calcolatore, fai i conti di quante vulcaniane ci vorrebbero per fare senso ogni giorno. Troppe. Beh, però vedete, queste sono alcune delle curiosità che stimola l'universo di Star Trek. Già, è incredibile. Ma continuando a parlare di vulcaniani, vogliamo far sentire un pezzo per far capire cosa sono effettivamente i vulcaniani e anche come ragionano. Questo è un pezzo tratto dalla serie. Ma che serie? È un pezzo tratto dalla serie originale, e in cui penso sia la prima o la seconda stagione, in cui il capitano Kirk viene per un errore di teletrasporto sdoppiato in una parte buona e una parte cattiva. Ah, perché hanno il teletrasporto? Chiaramente. E come funziona il teletrasporto? Il teletrasporto ti smaterializza e ti materializza. E per un ponte quantistico, come così lo chiamano, ti rimaterializza da un'altra parte. Il teletrasporto fu inventato in Star Trek perché non avevano soldi per gli effetti speciali. Davvero. E di conseguenza, piuttosto gli effetti speciali che avrebbero, diciamo, che sarebbero serviti per simulare l'atterraggio della nave, costavano molto di più che quelli per il teletrasporto. Quindi dissero: perché fare a terra la nave quando noi li possiamo teletrasportare a terra e la nave può rimanere in orbita? Perfetto, geniale. Una cosa geniale. Ah, cioè, quindi il teletrasporto è nato per questo? Sì, sì. Cioè, se no noi non avremmo un teletrasporto? No, no, sarebbero atterrati normalmente, magari l'avrebbero fatto nelle serie successive perché volevano fare gli sbroni, avevano un sacco di idee, ma nella serie classica serviva quello, cioè siccome loro non avevano soldi per, cioè, farlo un'astronave che atterra, è un casino, poi l'Enterprise è grosso, le ruote dove ce la metti, è difficile. Allora dici, ma teletrasportiamoli, tanto. E in uno di questi teletrasporti il capitano Kirk viene sdoppiato, viene diviso in due personalità opposte. E guardate Spock come commenta la divisione del capitano Kirk. Lo sdoppiamento. Tra poco riacquisterà conoscenza, ma dato il suo stato non credo sia il caso di dargli un tranquillante. Forse dovremmo legarlo. Che ne pensa, capitano? Sì. Sì, hai ragione. Figo. Ma che diavolo mi succede? La mia opinione personale, capitano, è che lei sta perdendo la sua capacità di decidere. Cosa glielo fa credere, Spock? Mi ascolti, dottore. Questa è l'occasione adatta di studiare i più oscuri meccanismi umani. Posso finalmente osservare da vicino cosa siano il bene e il male per un terrestre. Questo è ciò che per voi è il lato negativo, ovvero l'aggressività, la sensualità, la violenza. L'altro è quello positivo, che per voi è rappresentato dalla compassione, dall'amore, dalla tenerezza. Lei sta giocando con la personalità del capitano, se ne rende conto? Certo, ma cos'è che fa di un uomo un capo eccezionale? Questa insolita circostanza indica chiaramente che è proprio il suo lato peggiore, la sua cattiveria, se preferisce questo termine, una volta adeguatamente disciplinata, che gli conferisce potere. Quando l'aggressività viene a mancare, svanisce anche la capacità di comandare. Dove vuole arrivare, Spock? Se la sua capacità di comando si indebolisce ancora, lei non potrà più essere il capitano dell'Enterprise. Bisogna che lei ne prenda atto. Usando il cervello, lei può combattere la sua debolezza. Quanto durerà? Non mi giudichi insensibile se affronto duramente il suo problema. Lei lo sa. Io sono vulcaniano. Eh già, è vulcaniano, e quindi come avete potuto ascoltare la logica è alla base di tutto. Cioè, deve andare così, quindi non c'è spazio per le modalità, diciamo. Nulla. Infatti una parte dei vulcaniani si è separata da questo, ah, sì? Da questa scuola di pensiero. E come si chiamavano? Questi sono emigrati su due pianeti, che uno dei quali, il più famoso, è Romulus. Tommaso, secondo te come si chiama l'altro pianeta? Remus. Esattamente, Remus. E indovina chi dei due ha prevalso? Io andrei per Romulus. Esattamente. E hanno dato origine ai Romulani, di cui spesso si sente parlare nella serie, nelle varie serie stagioni di Star Trek, ma effettivamente si vedono in realtà poche volte, per quanto se ne parla. Sì, per quanto se ne parla. Tutti ne parlano perché sono sempre in guerra con la Federazione, hanno costruito addirittura una fascia chiamata zona neutrale in cui né i Romulani né le navi della Federazione possono entrare, pericolosissimi, la logica non esiste, sono addirittura religiosi, cosa sì. Che i vulcaniani non sono per nulla, credono negli elementi. Ora va a capire tu che cazzo vuol dire credere negli elementi. Nell'acqua, nella terra, sì. Nella terra, però nella terra è un po'... gli elementi sono quattro, scusa. Il che? Magari acqua, aria, spazio e fuoco. Allora, aria e spazio contano uguali. Se dobbiamo fare... Non diciamo... Aristotele mica conosceva lo spazio, lui gli ha deciso quali sono i quattro elementi. Non i Romulani, chi sono stati Romulani? Oh, allora. Chi li ha tirati fuori dal cilindro? È colpa mia che ne ho parlato di questi Romulani. Lasciamo, dimentichiamo i Romulani. Che altro ci stavano tanto simpatici questi Romulani. Poi i Klingon abbiamo già detto che gente sono. Insomma, battaglia. Battaglia e sesso e battaglia. Battaglia e sesso e battaglia. Sì, no, e poi hanno tutta una cultura, però è sul sesso e battaglia. Sul sesso e battaglia, chiaramente tutti i poemi epici, tutti i poemi di sesso e battaglia, anche quelli. È bello pensare come è vero come i critici americani li abbiano paragonati ai comunisti russi, è una cosa. Chissà che idea avevano del comunismo. A questo punto quasi quasi vado anch'io in Russia. Le parti della battaglia, più diciamo, faccio la scena del pazzo e me ne scanso, ma quella del sesso. E va bene, sta prendendo una deriva questa puntata, un po' così. chiedo scusa. No, ma che... Dunque, invece le altre popolazioni? Ma, in Deep Space Nine vengono studiati, che è il terzo spin-off di Star Trek. Questo viene da dove? È spin-off di cosa? È spin-off di Star Trek The Next Generation, che è il primo la continua di Star Trek della serie classica. TOS. Sì, che per parlare come parlano i tecnicisti, i trecchiani, sarebbe... Star I trecchiani? Trek, che terminone. Ma... Star Trek DS9. La particolarità di questo di questa serie è ambientata su una stazione spaziale. L'unica serie di Star Trek che non è su una nave spaziale e che non prevede di viaggiare nello spazio profondo, ma si occupa di problemi di politica. E uno, diciamo, dei temi fondamentali e dei personaggi e delle figure più importanti che ci sono su questa stazione è data dal fatto diciamo, un tema caratteristico è la contrapposizione tra Bejoriani e Cardassiani. Bejoriani e Cardassiani. Bejoriani, sì, chi sono? I Bejoriani sono un popolo che vengono rappresentati praticamente quasi come gli Zingari, tutti pieni di orecchini, vestiti sfati. I Cardassiani non si sa bene a che popolo rappresentino. Possiamo far sentire qualcosa per dare un'idea di che cosa siano. Su Wikipedia, perché anch'io li conoscevo poco, sostengono che abbiano un forte senso della famiglia, del dovere, un forte senso dell'arte, però... Non ti convince questa cosa? Sì, non mi convince. Insomma, alla fine sono guerrafondai, hanno conquistato Bejor, l'hanno tenuto sotto occupazione. Un popolo molto, sì, praticamente molto belligerante. Ok, intanto ridevo per le faccende che non possiamo dire qui in radio. Dunque, io a questo punto manderei un pezzo, visto che non abbiamo ancora trovato una sigla che ci hanno chiesto, mandiamo ancora qualcosa di generazione beat russa. Vediamo un po', io ho questo pezzo che a me piace sinceramente. Sentiamolo. Ascoltiamolo, è di Patrick Bergman, I-183RD. Eccoci qua, torniamo direttamente in diretta, direttamente qui, sempre dagli studi di Pisa della cantina di Leo, della precedente. E, insomma, ci avevano chiesto dalla chat sì, sì. Dopo aver ascoltato il bellissimo pezzo che abbiamo fatto prima, quello molto anni 70, di mandare la sigla di Spazio 1999. Noi ci siamo attrezzati, abbiamo chiesto aiuto anche a loro in chat e ci è pervenuto il link di YouTube che ora facciamo ascoltare a tutti voi. Prego. È piaciuta? Ringraziate colui che ce l'ha raccomandata. Bene, di cosa volevamo parlare adesso? Ma, di cosa volevamo tediare gli ascoltatori? Continuando a parlare delle varie specie presenti nell'universo di Star Trek, non si può non parlare dei Borg, forse la specie più particolare di Star Trek. Cosa hanno di particolare? Che in realtà sono dei cyborg, cioè sono, diciamo, praticamente hanno una grossa parte inorganica fatta di, sono praticamente metà robot, metà esseri umanoidi, e hanno la particolarità che assimilano la tecnologia di ogni specie che conquistano, e ne conquistano tante. E loro in che serie sono? Loro quelle spin-off sono presenti praticamente nelle tre serie, in The Next Generation, Deep Space Nine e Voyager, che sono le tre serie, tra virgolette, più moderne, che girate grosso modo tra gli anni 80 e gli anni 90. Ho capito. E sono, diciamo, onnipresenti perché rappresentano quella che è la paura effettiva del conquistatore decisamente più forte e con il quale difficilmente si potrà vincere. Famosa è la loro frase: noi siamo Borg, la resistenza è inutile, voi sarete assimilati. Di poche parole, ma effettivi. Anche il capitano Picard è stato assimilato una volta dai Borg, è divenuto Locutus dei Borg. Anche un personaggio molto importante della serie di Voyager, 7 di 9, era un ex Borg. Sì, c'è un'acclamazione dalla chat. Un'acclamazione per 7 di 9. Io capisco anche l'acclamazione, perché tornando a parlare di signorina, è una discreta signorina. Abbiamo sempre questa beh, ma io penso strana. Che tutti abbiano quel chiodo fisso. Secondo me ce l'hanno anche le donne quel chiodo fisso, ma non lo dicono. Chiediamo, non ci sono, c'è Maria Assunta in chat, potremmo chiedere. Maria Assunta non ci risponde, mi ha salutato prima, ma poi ha deciso di abbandonarci. Ho capito. Quindi i Borg sono, poi i nemici. Sì, sono insomma i nemici, quelli che incutono timore. Questi androidi che assimilano. Sì, assimilano, catturano le civiltà e assimilano tutte le peculiarità tecnologiche di queste civiltà, gente pericolosa. Io... Aiuto. Magari può darsi che Tette di Nove, come ci suggeriscono, sia anche lesbica. Chi lo sa? Io gradirei bisessuale, a questo punto potrebbe essere un'esperienza interessante. Tra l'altro i Borg, a livello di calore, diciamo, visto che i vulcaniani vanno ogni 9 anni, visto che ormai siamo su queste curiosità un sì, po' così, bisogna anche i Borg invece come... Non i, i Borg si clonano. Si clonano. I Borg più che si clonano si replicano. Ah. E più che, no, anzi, già trovare un Borg, che è il concetto di un Borg... Spieghiamo perché stiamo dicendo, perché in chat Viglietta ci ha suggerito che in realtà si chiamano gli Sborg. Gli Sborg, essere... I Borg, diciamo che si clonano, più che si clonano vengono tutti prodotti, cioè vengono assimilati, mettiamo che vengono i Borg mo sulla Terra, tu diventi Borg. Ouch. Per cui non si accoppiano. È come se mi avessero figliato, è come se ti avessero figliato. In questo sono un po' scadenti, se non fosse che la regina Borg, immaginata senza la parte meccanica, sarebbe anche discreta, cioè di visione una bella ragazza, una bella donna, insomma, che poi quando la tolgono dalla componente meccanica si vede tutta la colonna vertebrale, che è una scena inguardabile. Ho capito. Niente, comunque, giusto perché il tuo interesse è vivo, sì, verso la specie femminile in generale, mi dicono che su Wikipedia hanno cercato ed è etero. Quindi, va bene, sì, questo può... C'è speranza, diciamo. Sì, no, è abbastanza... No, mi fa piacere avere un pubblico così... così attento, serve, così stanno facendo esultanze per la prima ragazza che è entrata in chat, a parte Maria Assunta. Quindi va bene, tra l'altro presumo sia la mia ragazza a leggere il nome, quindi state buoni, non toccate, allora, stiamo lontani per piacere, evitiamo di fare commenti. Allora io manderei, mandiamo un altro pezzo. Dai, sì, Greg Gibbs, li teniamo caldi. Manderei Stare in Space. I've been lost on outer space, but I never stop the race. These ways, no, I never stop, never. Those grapes on sour graves, but they never pop. Never pop to taste these grapes. Allora, però io volevo anche dire, visto che io sono un pochino sempre in disparte data la mia assenza dallo studio, ci manchi. Che comunque oltre lo so, oltre alle varie stagioni, vari spin-off che sono stati fatti di Star Trek, sono presenti ben 11 film prodotti dal 79 al 2009, per adesso. Mm-hmm. E ho appena trovato, devo ammettere, l'ho appena trovato adesso, anche se era banale trovarlo, l'ordine esatto in cui si possono guardare, cioè in cui si sistemano all'interno delle varie serie. Sì, non ti sto seguendo bene. Che è... Pronto, mi senti? Vai, sì, vai, sì, ripeti. Ti sentiamo, vai. Ok. Cioè, i vari film si collocano in momenti ben precisi della storia portata avanti dalle serie TV. Ok. Sì, sì. E sono appena riuscito a trovare una barra del tempo, non so come la chiamate voi. La line time, diciamo, per fare i fighi in inglese. La scaletta precisa. La timeline, esatto, esattamente la timeline. Con tutti i film e con tutte anche le serie TV, e questa per me è nuova. Vai, allora, credo che mi avrebbe aiutato moltissimo all'inizio. Allora, prima qui parla di alcuni episodi pilota andati in onda all'incirca del 1965, poi appunto la serie classica. Sì. Lo zoo di Talos, qui mi parla. Sì, sì. Okay. Poi. Poi la serie classica. Sì. A seguire i primi quattro film. Yes, che sono? Vediamo. Se... Poi The Next Generation, mm-hmm. all'interno della quale va visto il film quinto e il film sesto. Sì. Poi durante The Next Generation comincia Deep Space Nine. E finito The Next Generation c'è il settimo film, sempre in contemporanea con Deep Space Nine. Subito dopo, in contemporanea con Deep Space Nine, comincia la Voyager, e mantenendo sempre ancora Deep Space Nine il film ottavo e nono, poi finisce Deep Space Nine, finisce Voyager, comincia Enterprise, sì. E il decimo e l'undicesimo film. Ma è Enterprise cronologico dal punto di vista della storia è precedente alla serie classica, eh? Sì, questo sì. No, questa è la timeline della messa in onda, scusate, sì, non sì, ho sì. detto. Ah, dell'uscita. Ecco, allora. No, scusate, forse non che... l'avevo detto. Perfetto. Okay. Allora ci torna. Enterprise è ambientato circa un secolo prima detto. Della serie classica. Oh, che croce. Tra l'altro, 2100. Mi dicono. Sì, tra l'altro poi manderemo uno spezzone dalla serie Enterprise. Dalla serie Enterprise, che è un po' il succo di quella che è la, diciamo, il motto, oppure il track style. Là, signor, in italiano. Insomma, quello che Star Trek voleva passare ai suoi... Il messaggio, diciamo, un po' il della... Il messaggio. Vedi, l'italiano a volte viene in aiuto. È difficile, un italianismo, non me lo sarei mai aspettato. E invece, lo sanno anche lui. Va bene, va bene. Incredibile. Beghe campanilistiche. Quindi, a questo punto, un altro pezzo di quelli che sembrano venire da Star Trek. Allora, ancora di Greg Gibbs, io manderei Hemoglobin. OTS. I guess I don't know where to start. In what seems like a bag of useless parts. Adesso? Oh, siamo tornati. Siamo tornati. È tutto qui. Sembrerebbe finito. No, tutti sperano che sia finito, sì. Hanno le palle piene ormai. Ma effettivamente guardatevelo Star Trek. Non potete pretendere che io ne parli in una puntata. Io che non l'ho visto, Cronologicamente, non ci sto capendo una mazza. Allora, perché è tutto strano, prima uno, poi l'altro, poi il prequel, poi il sequel, poi diciamo, lo spin-off dello spin-off. Se vuoi capirci qualcosa, ti consiglio di guardarlo in ordine di, non di uscita, bensì di storia. Per cui guardare prima Star Trek Enterprise, poi la serie classica, poi TOS, abbiamo imparato poi questo. Poi The Next Generation, sì. Deep Space Nine e Voyager. Ok, Voyager... da cui è tratto il programma di Giacobbe. Sì, sì, sicuramente ci avevano tratto il programma di Giacobbe da quella serie, perché ci stavano gli egizi. E chiaramente no, ma dice, diciamo che di cazzate ce n'è a sufficiente per mandare avanti il programma di Giacobbe per eoni, e probabilmente lui si deve essere ispirato, a detta di tutti la serie più scadente di Star Trek. Difatti a metà della nonostante sia durata sette stagioni, anche questa, alla terza stagione hanno difficoltà, non l'hanno chiusa, ma c'è stato il cosiddetto salto dello squalo per la... Jump in the shark, come ho imparato da questo programma da una delle scorse puntate. Sì, se non sbaglio era la quinta, quella che abbiamo fatto su Happy Days. Sì, una puntata da passare agli annali. Vedi che iniziamo a fare cultura anche noi. Sì, no, è stata una puntata innanzitutto rincuorante e poi esilarante al massimo. Se abbiamo fatto quella puntata, sì, chiunque può venire qui a fare l'ospite. E infatti sono venuto anch'io a fare l'ospite. E tuttora mi sto chiedendo, ma di che cavolo sto parlando? Effettivamente sto parlando di Star Trek. E ci stiamo provando, cercando di dare un ordine a tutto questo. Intanto qualcuno qui ci dà dei tecnici sulla chat, continua insulta gratuitamente. Il presidente che scherza. Presidente, mi scusi, ma due signorine non me le potevi passare qui in radio? Perché fa freddo, già la canti, poi è umido, almeno... Non risponde, fa finta di niente. Non trattare male il presidente, che no, poi ci chiude il programma. Già non ci paga, quindi se poi ci fai mandare via. Cioè... Ho capito, ma è che almeno una pizza. Ti ha risposto, dice che le hanno finite, ma almeno una pizza, due panzerotti, una torta, insomma, qualcosa da mangiare. Siamo qui senza cena per preparare questa puntata. Ci vuole tanto sacrificio per fare radio, è inutile. Sì, indubbiamente. Oltre a una risma di carte. Che serve sempre, non si sa mai se... Insomma, c'è tutta una serie di curiosità su Star Trek che ho dovuto stampare, perché altrimenti a mente non poteva tenerle. Ok, allora comincio a snocciolarcele. Leggine qualcuno per noi. Ad esempio... denocciola. Ad esempio, una cosa che fa sorridere molti fan, io sinceramente non ci trovo niente da ridere, comunque pare che sull'Enterprise non ci fossero scale. Per cui se per puro caso si fermavano gli ascensori era finita l'Enterprise. Per fortuna non è mai successo. Non lo sappiamo se non è mai successo, perché mica le puntate parlano di tutti i giorni sull'Enterprise. Ci sarà stata anche il giorno quella data astrale, esatto, che Tommaso ci calcolerà, in cui non andavano gli ascensori. E poi è un bel casino, per esempio, non capito, è un problema. Parlando un po' di cose più serie, Star Trek è stata la prima serie televisiva in cui c'è stato un bacio interrazziale. Ah sì? Eh sì, perché l'addetta alle comunicazioni della serie classica, Nicole Nichols, c'è un nome molto simile a quello, Uhura per gli intenditori, era nera, e già questo era nel 1966 un tabù, diciamo, che una novità, nera, donna, e in più bacia un bianco, potete immaginare, cioè, che, tra l'altro, effettivamente fosse stato il bianco, io avrei acconsentito in maniera chiarissima, era carina, c'era un caschetto, e però è stata una cosa che socialmente ha destato parecchio scalpore, sì, e tra l'altro, tra i vari... diciamo, tra le varie chicche che Star Trek ha prodotto, c'è quella di aver invogliato gli ingegneri, i costruttori della NASA a dare il nome Enterprise al prototipo di Shuttle. Io avevo letto da qualche parte, ora non ricordo dove, nel tentativo di cercare di capire qualcosa dell'universo dei trecchiani di Star Trek, che addirittura c'era stato proprio un comitato di gente, di fan di Star Trek, che erano andati alla NASA a manifestare per chiedere che proprio lo Space Shuttle, che poi è quello che è arrivato sulla Luna, si chiamasse Enterprise. In realtà la NASA hanno avuto un attimo di senno e non so per quale motivo l'abbiano dovuto chiamare Apollo, anche quello è un nome del cazzo, però Enterprise ci hanno chiamato il prototipo. Per almeno o qualcosa. Diciamo, se l'avesse fatto Bruno Vespa, Enterprise l'avrebbe chiamato il plastico. Eh già, è vero, è fare un raffronto con i tempi moderni, per forza, perché ora noi il prototipo di uno shuttle figuzzo lo possiamo produrre, ma un plastico da Vespa non manca mai, effettivamente. Attualità agli spacciaserie. Bene, sì, sì, altra curiosità. Vai, vai, che ce n'è tante. A proposito di sesso, abbiamo parlato di sesso tutta la puntata. C'è una razza, i Deltani, che sono una razza pacifista, devono essere i figli dei fiori dell'universo, probabilmente, che fanno sesso a un livello clamoroso, tale per cui ritengono gli umani inferiori sessualmente. Cioè, che non, inferiori sessualmente nel senso che non reggerebbero un rapporto sessuale con un Deltano. Pazza. Già qui, considerato che sono quasi umanoidi, cioè hanno delle protuberanze strane, sarebbe da chiedersi come avverrebbe il rapporto sessuale. Cioè, avendo queste strane protuberanze, se l'umano è donna, uno si può anche immaginare qualcosa, ma se l'umano è uomo, rischia di diventare un problema. Non so se avete notato, ma è diverso, c'è una piccola differenza. Già, sono problemi, sono problemi. Insomma, cose particolari, insomma, e mille altre cose, mille forse esagerato, ma insomma... 200 e altre cose, diciamo 10, ecco. Tipo l'IBM, quella dell'IBM, l'IBM ha usato la parola warp. Con warp i trecchiani indicano, perlomeno nella serie classica veniva indicata la curvatura, cioè il modo con cui le navi spaziali potessero viaggiare oltre la velocità della luce, e l'IBM con la parola warp ha utilizzato la parola warp, come ora, chiaramente gli informatici vedrai che adesso risponderanno, no, sarebbero, come dici, una release di un sistema operativo di cui io non so assolutamente una sega, e chiediamo spiegazioni agli informatici, innumerevoli informatici presenti in chat, chiediamo un po' di qual di è spiegarci. Non lo so, la release warp. Una release warp, dice che è vero. È vero. Il presidente OS Warp 4, grande. Vedi, il presidente ci viene subito in soccorso. Ok, allora, quindi, insomma, ora io volevo mandare un altro brano e tu mi hai proposto di mandare ho proposto a Pino di mandare un brano di Lynyrd Skynyrd, Simple Man, che è un brano che fa da colonna sonora a una discesa dell'equipaggio dell'Enterprise in The Next Generation, quando una delle tante volte hanno attraversato un varco spazio-temporale, si sono ritrovati negli Stati Uniti all'epoca del Far West. E questa canzone sembrava essere valida come colonna sonora di questa discesa. E quindi adesso vi ascoltate Simple Man. Eccoci, siamo tornati. Stavamo gustando il funzionamento della regia qui, dei programmi di regia, e ogni volta si impara qualcosa di nuovo, Claudio. Purtroppo la prima volta, però io sto imparando tantissimo, proprio sono... sì stai imparando dai peggiori, però purtroppo non siamo. Nel frattempo leggendo la chat, lui mi sottoponeva un quesito, Piero mi sottoponeva un quesito, prima stavamo parlando, ma adesso ho detto in MVP accennato che nella serie quella Next Generation, sì, ora non mi veniva, avevo un attimo di vuoto, c'erano delle presenze, dei personaggi, dei caratteristici nuovi, delle caratteristiche nuove, diciamo, che venivano impiantate nel, visto che erano 80 anni dopo rispetto alla serie originale, c'era qualche modifica alla storia, e c'era, poi in chat si discuteva appunto di questo Q, fantomatico personaggio, sì, Q. Io penso che nessuno degli appassionati di Star Trek abbia ben capito a che cacchio serve Q. Però c'è. Sì, però c'è. E fa anche un sacco di danni. Sì. Lui, la prima puntata di Star Trek, compare già nella prima puntata di Star Trek The Next Generation, uh-huh, che è Incontro a Farpoint, e tira una rete subspaziale per cui evita all'Enterprise di poter andare avanti. E durante questa... Tutti gli effetti sonori ci stanno sentendo, perché Tommaso è caduto giù e lo stiamo richiamando. Durante questa sentite, sì. Il bello della diretta, forza. Dicevamo di Q durante la prima puntata chiusi si presenta ed effettivamente un'entità onnipotente, onnisciente, onnipresente, può fare di tutto questo personaggio. Effettivamente non si capisce a che cosa serve nello specifico, anche perché vuol fare del bene e fa del male. A un certo punto in Star Trek Voyager figlia pure, fa anche un bambino, non mi ricordo neanche. Ma va sulla croce anche lui oppure no? È una religione diversa. Lui vive in un'altra dimensione, capito? Passo avanti, cioè non è in questa dimensione, lui che si chiama Continuum Q, guarda caso, se le fa nome sue, cioè cose. Proprio casa sua. Sì, per forza, ma poi non è solo lui, c'è Q, ma ci sono tanti Q. Non ho mai capito. È vero che stava causando discorsi anche in chat. Però effettivamente Q. Quindi è una divinità un po' ambigua, non sa se aiuta, se poi non si sa neanche se è una divinità, poi assume fattezze umane. Questo i detrattori della Bibbia avrebbero da ridire, ma. E vabbè, però lui è lui che fa conoscere i Borg alla Terra. Guarda lì che culo, che poi vogliono assimilare tutti. Sì, vogliono assimilare tutti. Insomma, cose. Ho capito. Invece, l'altra caratteristica che arriva con The Next Generation: la caratteristica nuova di The Next Generation è il ponte ologrammi. Come si può, non si può dimenticare parlare di Star Trek senza parlare di ponte ologrammi. Che cos'è? Come funziona? Ma il ponte ologrammi è una stanza, un ponte, okay, in cui questi personaggi entrano e per definirlo, come un ingegnere una volta lo definisce, dice che per la fusione di illusioni ottiche e la tecnologia del materializzatore, mm-hmm, o del riproduttore di materia, questi possono creare degli ologrammi fisici e possono simulare varie situazioni di vita. Cioè il teletrasporto senza il fisico lì, cioè nel senso è una riproduzione finta del teletrasporto. Sì, ma può essere anche inventata, anche scene di fantasia, cioè darebbe un sacco di lavoro a tutti gli informatici che ci seguono, perché ci possono fare giochi, ci si può fare di tutto su questo ponte ologrammi, anche le cose zozze volendo, ma difatti in Deep Space Nine sì, un Ferengi, che sono una razza che è dedita al denaro, affitta i ponti ologrammi come le mignotte, cioè il nostro Silvio ad esempio sarebbe lì lui sarebbe il primo fruitore dei ponti ologrammi, perché prima di tutto non sarebbe perseguibile penalmente, perché tanto sono ologrammi possono essere anche minorenni, effettivamente non è che adesso sia perseguibile penalmente, io sto parlando per ipotesi, chi lo sa. Chi ha seguito la votazione oggi? Che votazione? È vero, sì, ma figuriamoci che noi eravamo a preparare la puntata. Secondo te come sarà andata la votazione? Lasciamo stare. Mi sembra. Diciamo che la votazione non è andata, ecco, ma lasciamo perdere. Tommaso è informato. Cioè, tu dalla Francia sei più informato di noi? Guarda, andiamo avanti perché questa è una radio libera, non ci parla di politica. Stiamo parlando di ponte ologrammi, sei tu che immaginavo Silvio sul ponte ologrammi, o meglio, Leonardo sul ponte ologrammi, che di presidente si parla. Io non so se hai ascoltato il podcast o comunque la scorsa puntata. L'altra volta le abbiamo dato, usando la parola del presidente, del pedofilo, quindi lasciami stare in pace per un po', Leonardo. No, va bene. Mi è venuto spontaneo, sapevo dei precedenti. Il presidente, cioè, mi dispiace se hai questa necessità, ma insomma, scherzavo, chiaramente scherziamo. Quindi, adesso abbiamo un filmato che hai preparato. Sì, che sì, mandiamo. Un filmato che naturalmente in radio non si vede. Però è un filmato. Sappiate che è un filmato. Ecco. È importante vedere a che livello arriva l'evoluzione del ponte ologrammi, tanto da creare un medico olografico. Un medico olografico. Che si sdoppia, fa del caso. Ora sentiamo un po' quello che. Cioè, si crede un artista, diventa un artista in Star Trek Voyager. Già. Ecco qui. In principio regnavano le tenebre, il vuoto di una matrice in attesa della prima scintilla. Poi un singolo fotone rivelò la sua esistenza. Quindi un altro. Subito dopo migliaia di altri. Tracciati optronici si congiunsero. Sotto programmi emersero dal caos e nacque una coscienza olografica. Mi sono svegliato in questo mondo già programmato, ancora completamente innocente, inconsapevole delle difficoltà che avrei affrontato o del grande potenziale che un giorno avrei avuto. Computer, salva le modifiche e apri il capitolo 1. E qui c'è un po' il paradosso dell'ologramma che salva l'altro ologramma. Sì, è un ologramma che salva se stesso su un computer, però lui stesso gira su quel computer. Insomma, è l'evoluzione del ologramma, mentale. È il trip apocalittico. Portato all'ennesimo potere. Sì, sì, va ben oltre ogni immaginazione. Ok. Ma d'altronde siamo su Star Trek, per cui... Sì, però Matteo, l'ologramma che salva se stesso come ologramma, capisci che va è qualcosa di superiore. Non si vede di certo tutti i giorni. Cioè, io avessi un ologramma, cioè fossi un ologramma, penserei a fare altro, però... Capisci? Ok, allora, noi abbiamo esaurito i pezzi da mandare da Star Trek, quindi io... Così, ho cominciato a cercare qualcosa che potesse essere attinente, e ho pensato ai REM, no? Perché c'è quel brano famosissimo che ora probabilmente manderemo, che è It's the End of the World As We Know It, che mi sembrava appunto, cioè, è la fine del mondo per come lo conosciamo, e poi inizia Star Trek, no? Ci sta benissimo. Questo, naturalmente, perché io lo potessi mandare, doveva essere stato trasmesso in una serie TV, perché altrimenti qui non abbiamo l'autorizzazione a mandarlo, il presidente ci caccia. E questo brano è stato eseguito in ben due serie TV, sia in Cold Case nell'episodio 18 della prima stagione, sia in My Name is Earl, sempre nella sua prima stagione, nel 19° episodio. Quindi andiamoci ad ascoltare It's the End of the World As We Know It, and I Feel Fine, tra parentesi, i REM. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serve its own needs, dummy serve your own needs, beat it up and not speak, grunt no strings. Eccoci qui. Dunque, siamo più o meno in dirittura d'arrivo con la nostra trasmissione su Star Trek. Ricordiamo che è possibile partecipare al quiz aggiungendo prima gli spacciaserie su Skype, tutto attaccato, gli spacciaserie tutto minuscolo, cercateci, e poi chiamandoci appunto qui in diretta, e in redazione. Sì, per fare quelli chic e fighi. Ma appunto questa settimana la novità è che Tommaso ha elaborato per noi il premio, che è la tazza virtuale degli spacciaserie. Quindi chiunque riuscisse a rispondere correttamente alle tre domande... Non è più virtuale, la tazza virtuale non è più virtuale. Certo, Tommaso, non ti saltare troppo. Dunque, la tazza virtuale che non è più virtuale, ma che è comunque virtuale... La voglio la tazza. Devi partecipare da casa, no. Devi andare a casa, la prossima puntata ci ascolti, ci chiami, aggiungi gli spacciaserie su Skype. Io sono gli spacciaserie adesso. Come spacciaserie, ora vediamo se te lo diamo, se te la diamo la tazza. Quindi, non lo so. Guarda, il tuo coinquilino. Già ha detto prima che sono il suo ex coinquilino. Già ti sta dimenticando. Lontano dal cuore. Allora, quindi... Claudio, non potrei mai... guarda, lì si passa per dei gay incalliti, lo sai? dopo queste dichiarazioni che io non voglio commentare, visto che ce li ho accanto, almeno uno dei due, di solito anche l'altro, io tornerei a parlare appunto del quiz, l'ho già detto, che aggiungete gli spacciaserie su Skype e dopodiché chiamateci. Preferibilmente durante il pezzo musicale che manderemo dopo, in modo tale che abbiamo un po', non mandiamo quegli effetti sonori, tutte le chiamate che arrivano lì. E per concludere, per quanto riguarda Star Trek, avevamo pensato, come avevamo già annunciato prima, di parlarvi del messaggio un po' che è racchiuso nella serie che è andata in onda per ultima, e che è il prequel. È il prequel, sì. Ed è un po' il senso di tutto Star Trek, di quella che è l'esperienza e l'idea di Star Trek come serie televisiva. A fare questo discorso è il capitano Jonathan Archer, Interpretato da? Interpretato, non mi ricordo come si chiama. Ora, neanche io mi ricordo come si chiama, però volevo dire a coloro che seguono... No, Claudio. Martelli, non me lo ricordo assolutamente. Ora, su 18 milioni di personaggi... E 178 episodi. E 178 episodi in una puntata, non potevate pretendere che io mi ricordassi tutti i nomi dei personaggi. È interpretato dall'attore Scott Bakula. Ecco. Allora, secondo te ti sembra normale che io mi ricordi Scott Bakula? Certo, un nome assurdo, ma ricordato. Ecco, hai ragione, appunto, Scott Bakula, che tra l'altro, ai giorni nostri, diciamo, per chi segue le serie più moderne, non queste cose che sono andate in onda. Vabbè, ma questa invece proprio sta andando in onda adesso. Ma siamo nel 2004. Oddio, ho perso un varco temporale, dove sono finito? Io sapevo che eravamo nel febbraio del 2011. Datemi conferma dalla chat, per favore. Ho dormito così tanto. Mi sa di sì. Ah, attenzione. Comunque, l'uomo che si è risvegliato nel 2011, dormendo dal 2004, è venuto qui a parlarci di Star Trek, ha studiato tutto questo, e ci stava presentando un pezzo in cui, tornando a bomba, Scott Bakula è protagonista di una serie che si chiama Man of a Certain Age, che parla di trentenni / quarantenni che ancora non hanno trovato lo scopo della loro vita, e quindi c'è questo loro continuo interrogarsi, e lui fa la parte di un attore sfigato, perché non lo chiama nessuno, non fa più nessuna parte, quindi si arrabatta un po' come può, però la ragazzina giovane con cui andare a letto la trova sempre, a dispetto dei suoi altri, colleghi, ma perché lui c'ha questo fascino un po' così, e quindi... Lasciando perdere tutto questo, tornando a bomba. Senti, su Star Trek. Ma sempre parlando un attimo di lui. Sì, dimmi tutto. Perché c'è un'altra cosa da dire di lui. Lui era protagonista anche di un'altra serie televisiva, che è andata in onda dall'89 al 93. E lui con le date. Dal titolo originale Quantum Leap. Con Wikipedia davanti. Il titolo italiano In viaggio nel tempo. Quantum Leap, quante volte su Rai 3. È una serie fantastica. Su Rai 3 andava in onda l'estate. Fantastica. L'estate, il pomeriggio verso le 4 e mezza. Poi sì. Parleremo. Ho visto diverse puntate, era molto divertente perché c'era lui che entrava nel corpo di altre persone facendo questi salti temporali assurdi, perché lui non si fermava mai, entrava in questi corpi di altre persone, assumeva le sembianze di queste persone, viveva la vita per quanto tempo rimaneva lì prima del prossimo salto successivo. Ed era molto, molto carino, diciamo. Saltava come... lo squalo anche lui. Non lo so se c'era un episodio in cui effettivamente saltava lo squalo, però nel senso, senza infame né lode, era abbastanza carina come serie. E poi anche abbastanza conosciuta, Quantum Leap, giusto, sì, Tommy? Sì. Esattamente, molto conosciuta. Ora i dati di audience purtroppo non li ho sotto mano, però comunque sono state 5 stagioni. Tommaso, questo da te non me l'aspettavo. Un appassionato di numeri come te. Nonostante Wikipedia avanti. Dopo la prossima canzone vi farò sapere anche i dati di audience di Viaggio nel Tempo. Perfetto. Va bene. Allora, intanto, noi dopo aver annunciato più volte, cercato di estrapolare tutto quello che potevamo dare, le informazioni, partiamo col messaggio. Lasciamolo andare. Mandiamolo. Fino a circa 100 anni fa, c'era una domanda che ossessionava gli umani. E li spingeva a studiare le stelle e a sognare di viaggiare fra loro. Siamo davvero soli? La nostra generazione ha avuto il privilegio di conoscere la risposta. Siamo tutti esploratori con la voglia di scoprire che c'è là fuori, quali misteri si nascondono oltre l'orizzonte. Eppure, più ho sperimentato e più ho imparato che non importa quanto andiamo lontano o quanto velocemente ci arriviamo. Le scoperte più grandi non si celano necessariamente lontano o dietro la prossima stella. Sono dentro di noi. A volte negli invisibili legami che ci uniscono. E parlo di tutti. L'uno con l'altro. L'ultima frontiera inizia in questa sala. Esploriamola insieme. Thank you. discorso così, certo, con questa musica trionfale e solenne sotto. Finisce qui, finisce qui. Tra l'altro, qui al quiz non ci chiama nessuno, non ci scrive nessuno, non lo vogliono fare, non vogliono vincere la tazza, è incredibile. Vi rendete conto, la tazza degli spacciaserie? Cioè, mica è da tutti. Cioè, mangiarci tutte le mattine. Cioè, poi è virtuale, non la sporchi nemmeno, non la devi lavare. Non è più virtuale. È virtuale, non virtuale, è un concetto difficile da esprimere, però cioè, Tommaso ci è riuscito poco bene. È un difficile concetto, Claudio, però... poi te la regalerei, se tu parteciperai al quiz e vincerai ti verrà regalata. Capito, va bene, parteciperò al quiz allora, prima o poi. Bravo, bravo Claudio, quando torni a casa, il prossimo giovedì, tanto che c'è da fare. No, facciamo così, torno a casa, tu aspettami qua, ti chiamo e facciamo il quiz. Eh no, perché c'è il computer che lo devi lasciare qua. Uso quello, ce ne sarà un altro a casa. Pepino, sveglierò Peppino a casa. Tra l'altro Peppino, che tu devi sapere, era un nostro assiduo ascoltatore da Boston. Ah. E adesso che è qua a Pisa probabilmente non ci ascolta più. Cagato, perché sennò ci avrebbe già umiliato clamorosamente in chat, presumo. Avrebbe detto, ma lui vede Star Trek. Ma non lo so. Poi vabbè, ha parlato di Boston Legal all'inizio, può darsi che si sia sentito chiamato in causa. Ascolta, io avevo una curiosità. Chiedimi. Ma nello spazio, no? Cioè sulla navicella, non lo so, uscivano fuori anche, poi come facevano a respirare? Ma c'avevano delle tute forse, c'avevano i respiratori, erano attrezzati. No, perché devi capire che poi io nel cercare qualcosa che avesse un senso e che si potesse attaccare a Star Trek, a livello di playlist musicale, ho trovato questo brano che è andato in onda nella serie Stargate Universe, quindi comunque... qualcosa la stella c'era qualcosa di fantascientifico pure nell'episodio 4 della prima stagione, è un brano di Alex Imardo, quindi abbastanza folcheggiante, che tu dici con lo spazio cosa c'entra, che si intitola Brief e quindi diceva Don't forget to brief. Ecco, quindi io adesso, visto che ho fatto tutto questo lancio introduttivo, la farei partire. E se nel caso qualcuno decidesse, fortunatamente, qualcuno si iscriva al quiz, partecipate al quiz, per favore. Ecco, intanto beccatevi Alex Imardo con Brief. Quindi con questa sigla con i bambini che esultano, che Tommaso maledetto ha messo, io non so per quale motivo, Tommaso. Ma l'avevo anche tolti. Io c'ho ancora... è divertente parlare di spoiler. Ma vabbè, i bambini non lo so se saranno contenti comunque. I bambini a quest'ora dovrebbero essere a letto. Ecco, Giuseppe sarà a letto, speriamo. Giuseppe. È il bambino di su, che noi chiamiamo amichevolmente Giuseppe. Si chiamava Giuseppe. Non lo so. Al massimo è Vito. Non lo so, Bari è Vito, qua non lo so. Ma Vito è un nome internazionale. bene. Quindi, come al solito, in questa rubrica andiamo a ascoltare dei brani in inglese senza poi ridoppiarli, senza tradurli. Partiamo dall'episodio 10 della quinta stagione di Dexter. E in questo episodio, vediamo un po' se riesco a inquadrarlo. Sì, ci sono Morgan, Dexter e Lumen, che sono tornati da non vi dico cosa, e a un certo punto diciamo che capiscono che c'è qualcosina tra di loro, che se può fa, se non se può fa, mandiamo il filmato. Harry tried to mold me into the image of the monster he thought I was. Told me to flee human connection, so that became a way of life for me. someone different. In her eyes, I'm not a monster at all. Che parlavano poco, ma agivano, cioè. Però si capiva, dai, dobbiamo dire, si capiva, si abbastanza, intuiva, no? Si intuiva. Ok, perfetto. Allora, questo era per quanto riguardava lo spoiler di Dexter. Passiamo adesso invece a Grey's Anatomy. Ora, non so se tutti sanno quello che è successo, non lo diremo, però c'è stata una situazione nella stagione precedente. Attenzione. C'è qualcuno che ci aggiunge su Skype. Non sappiamo chi è, però aggiungiamo. Rosa vuole partecipare? Chissà. Nel frattempo io continuo a spiegarvi un po' la situazione. Quindi dicevamo, alla fine di qualche stagione fa, che io non ricordo con precisione, però c'è stato un qualcosa nell'ospedale che ha stravolto un po' tutti quanti. E appunto, adesso c'è un problema che è quello che si sentono i rumori della chat di Skype, ma possiamo continuare, purtroppo ci scrivono, se vuoi ci chiami, Rosa, chiamaci, se vuoi, collega di laboratorio di Tommaso. È un momento di radio un po' così, però cerchiamo di ritornare a bomba a quello che stavamo dicendo. Il Grey's Anatomy era finito in un certo modo, e poi è ricominciato, ci sono stati dei momenti per riprendersi da questo evento che non diremo, per evitare il super spoiler per chi è ancora indietro, e appunto in questo dialogo che ora invece trasmetteremo c'è un momento di confronto tra Meredith e suo marito, e in cui appunto c'è lei che spiega le ragioni per cui vede le cose in maniera diversa da quel momento in poi. Ecco, andiamo appunto a far partire il filmato. ICP still 45. His brain is still swelling. We're gonna have to remove the other side. You're gonna take off both sides of his skull? We're gonna leave this strip here that covers up the superior central sinus. Let's get the other side prepped. Well, I'm gonna go update the wife. What's gonna be so interested in updating the wife in the waiting room and doing this? Since I was the wife in the waiting room, Derek. I mean, honestly, do you think you and Christina are the only two who have ever been through a trauma? Don't do that. Do not bring Christina back into this. You don't get to act like a spoiled little brat in my OR. Why is it okay for Christina to do whatever she wants, but it's not okay for me? Because I'm not hiding under OR tables or bartending? Meredith. I mean, honestly, you and Christina are so busy supporting each other. Have you even noticed that I went through a trauma too? I was the wife in the waiting room, Derek. And it's so hard to be the wife in the waiting room. So hard that I walked into the OR while the shooter had a gun to you and told him to shoot me instead. That's how hard it is to be the wife in the waiting room. Excuse me, I'm gonna go update my patient. E già, era un po' nervosetta, però. Sì, sì. Tu che l'hai potuta godere anche dal video, no? Posso alterare. Sì, perché sono successe cose, se la serie poi si complica, si attorciglia attorno a delle argomentazioni che poi non stiamo qui a spiegare, essendo questa la sezione spoiler. Terzo spoiler di oggi riguarda l'episodio 9 della stagione 7 di House. Ecco, cosa succede? C'è House che ha un incontro con una persona particolare che riguarda anche la sua vita privata, e andiamocelo a godere, prego. EKG is unremarkable. Thyroid, liver, and kidney function seems fine. You're perfectly healthy. I wish that you would take a second look. I'm tired all the time, and when it's cold, I get this weird pain in my shoulder. I have a pain in my leg. You don't hear me complaining. Except for just now. How do doctors get this idea you're better than everyone else? Probably all that pulling people back for the brink of death. It's just a guess. My own daughter is a doctor. She makes a hobby of dismissing my concerns. She sounds smart. Did she tell you to say that? I've never met your daughter. That's hard to believe since you're currently stopping her. Eh già, beh, era chiaro, no? Claudio. Sì, sì, chiarissimo. Cioè, se l'ha capito sia Claudio che io, vuol dire che Tommy l'hai capito. Tommy. Io ho capito tutto. Vedi, però non lo dire perché poi, sennò poi lo spoiler è troppo... Spoiler perde l'effetto. Comunque, no, è troppo spoiler. Rosa, che ha avuto la delicatezza di aggiungerci mentre noi stavamo in diretta, non ha voluto poi partecipare al quiz, quindi noi non abbiamo dei concorrenti. Dai Rosa, partecipa al quiz. Qua non ci chiamano, quindi vuol dire che non vuole partecipare. E vabbè, noi non obblighiamo nessuno. Se nessuno partecipa, direi che per oggi possiamo chiudere qui. E mandiamo... Aspetta. Siccome la canzone che stiamo per mandare è Crystallized degli XX, volevo chiederti, esiste un procedimento in Star Trek, in qualche episodio strano, in cui qualcuno viene cristallizzato, viene immobilizzato nel tempo, magari viene... Con i vari ruoli di teletrasporto. Ah, ecco. Capitato, quindi può succedere. Volte. Sì, succede che bene un teletrasporto è andato male, blocca nel tempo, nello spazio-tempo, una persona, a volte la può cristallizzare, a volte la fa sparire. Non me l'aspettavo. Bene, quindi direi che con questo lancio un po' così improvvisato dall'ultimo, non mi ero messo nemmeno d'accordo col povero Claudio. Salutiamo Tommaso da Marsiglia. Ciao Tommaso. Ok, ciao a tutti. Bene, spero che ti sia divertito. Ci almeno tu da lì. Settimana prossima. Ok. Salutiamo Claudio, che ha avuto il piacere di essere ospite, cioè questa è una figura ormai mitologica, l'ospite degli spacciaserie, cioè perché ormai viene chiunque e comunque cani e porci. Io sei nei cani, dai, sì, facciamo spero, cani. Spero di diventare nei cani. Beh dai, dopo Mario potremmo dai. Fare delle audience per cercare dei nuovi ospiti. Sì, partecipa sì, delle selezioni. No vabbè, ora non esageriamo. Comunque magari se qualcuno si vuole proporre come ospite, noi accettiamo quasi tutti, diciamo. Quindi se avete qualche serie TV che vi piace in particolare, su cui sentite di essere preparati, proponetevi in chat qui o con una mail agli spacciaserie@gmail.com o su Facebook aggiungendo gli spacciaserie, gli nome, spacciaserie cognome, oppure non mi ricordo in quali altre mirabolanti vie siamo a disposizione per accettare. Ma basta solo queste. Ah, solo queste, ok, allora non ne ho dimenticato. Volendo Skype. Volendo Skype, giusto, gli spacciaserie, tutto attaccato, tutto minuscolo, aggiungeteci, in modo tale che siete già pronti per partecipare al quiz la prossima volta, non siate timidi, e basta. Quindi sulla prossima puntata non abbiamo molte news perché ancora non abbiamo deciso di cosa parlare, sarà sicuramente di un'altra serie TV con cui vi tedieremo o con altre, perché non si sa mai, questa volta quando abbiamo l'ospite di solito siamo monotematici, a volte invece cerchiamo di svarionare, spaziare un po' di qua e un po' di là, passare a parlare di più serie anche nella stessa puntata. Bene, per oggi è tutto, buona serata a tutti, mandiamo Crystallize degli XX. Thank you.